Check 1 2, mic check 1 2, mic check 1 2, microphone check, check 1 2. Sound check, il suono della musica. Di Gegé Telesforo. E con la puntata di questa sera, e non voglio nascondere, anche con un velo di mal di testa che credo crescerà nel corso della puntata, approdiamo all'appuntamento numero 274 del Soundcheck Prova del Suono di Radio 24. Buonasera a tutti voi da Giorgio Telesforo e buonasera anche a Silvia Barba, che questa sera mi darà una mano, guarda. Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori. Mi dispiace, sono stato costretto a prendere anche un analgesico, ma io so il motivo, non che abbia preso freddo, perché sto abbastanza attento in questo periodo, visto che c'è anche l'attività musicale in atto e non posso perdere i concerti, ma sono saturo, lo devo dire. Cosa stai sono combinando? sono saturo di note, cioè si ascolta troppa musica e questa notte ho fatto molto tardi proprio facendo ricerca, perché poi passi molto tempo sul computer ascoltare musica, ascoltare la tua musica quando produci cose nuove, e questa notte ho fatto tardi perché poi un brano tira l'altro e alla fine mi sono accorto di non riuscire a prendere sonno perché ero pieno di note. Quindi hai bisogno di un po' di silenzio, di resettare. Vabbè, adesso c'è il sabato e la domenica con il sound check, però ti assicuro che dal lunedì a mercoledì farò pausa e poi mi rimetto a lavorare per la radio. Va bene. Siamo tutti in attesa delle tue scelte. Ti ringrazio molto. Allora, io vorrei dare il via alla puntata di oggi presentando un album del quale abbiamo già parlato, che ha come protagonisti questi signori, una delle mie band preferite neozelandesi, ovvero Fat Freddy's Drop. Ne riparliamo. Album pubblicato il 24 di ottobre in tutto il mondo, erano già usciti un paio di singoli. Album si intitola Base e il brano che ho scelto è Wairarapa Blues. Però sinceramente una cosa che non ho mai capito è come mai abbiano scelto Fat Freddy's Drop come nome. Beh, forse tu lo sai. Hanno tratto il loro nome da un cartone animato, diciamo, prima comparso su dei giornali e poi evidentemente diventato un cartoon underground, uscito per la prima volta nel 1969. È un personaggio impertinente, un gatto arancione che si chiama Fat Freddy's Cat. Cat, oh, però il drop a cosa si riferisce? Che potrà essere? Una lacrima? La goccia, la lacrima, a volte anche per drop le cacchine degli uccelli, no? Pigeon, ah, ecco. Drop, la cacchina del piccione. Boh, chissà a cosa si riferiscono. Comunque, Fat Freddy's Drop aprono il soundcheck con proprio la prima traccia di questo Base album, lo devo dire, non fra i miei preferiti della incredibile produzione dei Fat Freddy's Drop. Hanno fatto senz'altro cose un po' più vicine alla mia personalità. Ho fatto sentire il disco in macchina anche a mia figlia, non le è piaciuto tantissimo. Lei è un tuo riferimento per gli ascolti? Per me sì, perché io devo considerare anche le scelte musicali di mia figlia per stare al passo coi tempi. Giustamente. Lei, e tra l'altro lei ascolta musica sul suo iPad, e gli artisti di riferimento per mia figlia, che ha 11 anni, arrivano molto dai canali della Disney. Ecco, che sono quasi tutti un po' come Gene Kelly, no? Ovvero cantanti attori, quindi con quella scuola del musical, che è una scuola importante negli Stati Uniti, solo da noi non esiste, è vero? È qui o fai il cantante o fai il musicista o fai l'attore o fai il disc jockey radiofonico. Lì fanno tutto e lo fanno tutto molto bene. E lo fanno bene, vabbè, sono americani. Allora, abbiamo perso già tempo però, Fat Freddy's Drop, Wairarapa Blues al soundcheck di Radio 24. Non nascondo che questa è la mia traccia preferita, il brano che preferisco di questo album nuovissimo dei Fat Freddy's Drop. Tra l'altro ce li siamo persi, mia cara Silvia, perché hanno fatto due concerti in Italia, pare con grandissimo successo, ottimi consensi di critica e di pubblico, e speriamo però di ritrovarli in uno dei grandi festival estivi nel nostro paese, magari a Umbria Jazz, perché la band merita. tu puoi suggerire però. A chi? A Carlo Pagnotta? Sì. Ma quello è un testone, una testa dura figura, quello decide sempre lui, non sta a sentire nessuno, no? Neanche Luciano Linzi. Adesso Luciano Linzi, che guidava la Casa del Jazz, formidabile discografico quando la discografia funzionava, collabora con Carlo Pagnotta, mica lo sta a sentire. E quello è un testone. Io lo dico tranquillamente in radio e me lo posso permettere perché siamo amici. Pagnotta, chiama Fat Freddy's Drop a Umbria Jazz per la prossima estate. Tra l'altro fra pochissimo parte Orvieto con Umbria Jazz Winter, e ci sono anche dei bei nomi, ma poi magari ne parliamo più in là, perché ci stiamo avvicinando al Natale, mia cara. Sì, hai preparato l'albero? No, non ancora. Okay, infatti credo che lo farò la prossima settimana con mia figlia, che ha già messo da parte tutte le cosette da appendere. Allora, Fat Freddy's Drop, continuiamo con loro? Continuiamo con Dai, loro. Dai, un'altra traccia, si intitola Novak, al soundcheck di Radio 24, Fat Freddy's Drop. Soundcheck, il suono della musica. Si intitola Memory, questo brano scritto e realizzato probabilmente nel suo home studio da Tom Misch, giovane talento inglese, soltanto 20 anni, per questo ragazzo che ormai stiamo presentando qui al soundcheck già da qualche settimana. Io mi sono innamorata. Di lui? Sì, di lui. Anche è un fisicamente, bel personaggio. Anche fisicamente non è male, eh? Non è male, molto carino e anche molto attento anche ad un sound che a me piace. Sì, perché è delicato, anche i brani cantati. Ma hanno sempre una vocalità piacevole, non spingono mai sulla vocalità muscolare. Si fa voler bene. Mm. Ne a te piace parlare. La vocalità muscolare? Non molto. Non molto. Non mi hai mai detto quali sono i tuoi cantanti di riferimento. Guarda, devo dire, ce ne sono vari e diversi, però in questo caso mi piace questo sound, perché no. Riesce ad essere anche però molto... tu che fai anche la cantante, ecco. avrai una voce di riferimento, cioè un personaggio, un artista che ha condizionato anche le tue scelte artistiche. Ma non lo so, io sono condizionata più dai testi e dal sound. Mm. Quindi parliamo, il mio riferimento in questo momento non è vocale, ma è appunto autoriale, potrebbe essere un Lucio Dalla. Lucio Dalla, sì. Ma pensa a te, io ti facevo più jazz, per quanto poi Lucio il suo background jazzistico ce l'aveva. Poi ultimamente, ecco, forse per le voci anche di un certo tipo e anche particolari, ti posso dire D'Angelo. D'Angelo, da Lucio Dalla a D'Angelo. Pensa due te caratteri, che salto. Due caratteri molto forti. Esatto. Io invece in questo periodo mi sto concentrando molto sugli ascolti di mia figlia, che ha iniziato con una grande passione per Bob Marley, venendo qui nel mio studio, e c'è stato un periodo che ascoltavo molto Bob Marley perché volevo realizzare un tributo al grande artista, e lei si innamorò di questa voce, di questo sound del reggae, quindi le feci la prima compilation che ha divorato e conosce tutto il repertorio di Bob Marley. Adesso però, come dicevo, si sta facendo la sua cultura attraverso i canali della Disney e cercando su YouTube le proposte dei YouTuber, cioè dei YouTuber di riferimento che fanno, come dire, promozione musicale più che discografica. E tra un po' magari lo farà lei il tributo a Bob Marley, per esempio. Ma perché no? Spero proprio di sì, tra l'altro sta studiando pianoforte e canto, e ci siamo ritrovati però d'accordo sul sound di una band che a me non dispiace. Sono dei disc jockey, però collaborano con grandi artisti e si chiamano Disclosure, e stanno avendo grande successo in Inghilterra e anche una nomination ai Grammy Award negli Stati Uniti un anno fa. Tanto che hanno appena concluso un tour pazzesco, finito al Madison Square Garden, insomma, che non è un posto proprio così. Però il Madison Square Garden lo riempi se porti anche delle star americane. Esatto, infatti hanno collaborato in quest'ultimo album non solo con Sam Smith, con cui collaboravano già da prima, ma anche Gregory Porter, Lordi, e Weeknd. E quindi si sono portati dietro alcuni vincitori di Grammy Award. Furbi loro. Allora, Disclosure, il brano è Icos. Attenzione, perché questo è un sound un po' diverso da quello che passa. Tu stai storci il naso, a te non piace tanto. No, ti devo dire la verità. A me non dispiace, è dance. Cioè, se io dovessi andare in un locale e ballare qualcosa, ballerei Disclosure con Icos qui al soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. sempre da un album ormai importante per loro, intitolato Caracal, con la partecipazione di grandi star, lo ha detto la nostra Silvia, Sam Smith, Gregory Porter, sono i Disclosure, ovvero due fratellini inglesi, fratelli Lawrence, credo. Guy e Howard Lawrence. Ecco, che bei nomi, giovani e belli questi ragazzi. Eh già. E probabilmente già ricchi, guarda che ti dico, come tutti i disc jockey, guarda che i DJ guadagnano senz'altro più dei musicisti, mia cara Silvia. E poi fanno anche delle polemiche molto particolari anche attraverso il Twitter o comunque i social media. Sai di questa polemica che hanno fatto? Chi? Loro contro Subtrack, anzi Subtrack contro di loro, perché gli ha, come dire, ha mosso il suo disappunto per la copertina di questo ultimo album dei Disclosure, che dice che sia molto simile a quella sua. Una polemica tipica dei disc jockey, insomma. Esatto. Forse i musicisti discutono su cose, non voglio dire più importanti, ma diverse, su aspetti legati magari al diritto d'autore. Qui invece se la prendono per una copertina. Se la prendono per una copertina e per un concept, diciamo, che il nostro Subtrack ha detto apparteneva a me già dal 2014. Comunque questo brano, quello che abbiamo ascoltato, intitolato Moving Mountains, a me non dispiace neanche da un punto di vista armonico. Quindi, per quanto i disc jockey lavorino moltissimo utilizzando il computer e un po' meno gli strumenti, i Disclosure sono riusciti a trovare un compromesso niente male da un punto di vista melodico, armonico e la spinta ritmica che non deve mancare, perché poi è musica che deve essere ballata. È musica originale, però mi sembra un po' già rimissata, come se fosse... Eh beh, tipico dei disc jockey, no? Cioè, senti le cose originali, sembrano già rivisitate. Esatto. Ecco, e invece allora ti faccio sentire una cosa rimissata da un formidabile producer americano di New York, giovanissimo, si chiama Ahmed Sirur. Lo abbiamo anche intervistato al soundcheck quando c'era il tuo collega Francesco Tromba. Che salutiamo. Che salutiamo nella passata stagione. Ahmed Sirur rivisita un successo di Jill Scott qui intitolato Golden, e poi facciamo una pausa perché arriva l'informazione importantissima di Radio 24. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Di nuovo collegati con il Groove Master Studio per la seconda parte del soundcheck di Radio 24 e a questo punto direi, mia cara Silvia, di presentare un altro eccellente talento americano, anche con origini africane, e si sente dalla musica che propone questa bellissima ragazza, anche molto carina, giovane e carina e molto brava, un grande talento per Alicia Olatuya o Olatuya, come la pronunci tu? Olatuya. Olatuya, Alicia Olatuya, sposata a un bravo contrabbassista, e evidentemente i contrabbassisti le piacciono molto, perché tra l'altro ha come mentore quello che io considero il miglior contrabbassista in circolazione da anni, che è Christian McBride. Esatto, ma lei è molto quotata, sai, perché dal 2005, quando si è trasferita a New York e si è diplomata alla Manhattan School of Music, insomma, che è una delle scuole sono più accreditate, lei fa anche tantissime altre cose, scrive tipo? Per recital, musical, opere e addirittura Carnegie Hall ha avuto la sua performance. Ma per tu, la sua tu l'hai vista dal vivo a New York? Io non ho avuto la fortuna, ma se ne parlava, sai, è una delle nuove leve che posso, trentenne, poco più che trentenne. Io l'ho scoperta perché ho visto, seguo, no, anche con un certo affetto immagino. No, la signorina Becca Stevens, esatto, che mi piace tanto musicalmente, e ho notato che era in giro per gli Stati Uniti con un concerto che vedeva anche la presenza di Alicia Olatuya e Diane Reeves. Ecco, per dire, quindi se hai l'approvazione di queste due grandi artiste, voglio dire, vuol dire che il talento c'è. Beh, il talento c'è, e poi lo si può apprezzare ascoltando questo album nuovissimo, si intitola Timeless. Naturalmente c'è la partecipazione di Christian McBride in un paio di brani, ma quello che ho scelto è un brano proprio arrangiato da Alicia Olatuya, non è una sua composizione, ma un successo di Michael Jackson, tra l'altro anche riproposto dal meraviglioso Miles Davis, esatto, ormai tantissimi anni fa. Ma questa è la versione di Alicia Olatuya di Human Nature qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Beh, dopo Alicia Oletuia ci stava abbastanza bene anche questa Daimé Arosena. Nomi particolari, questa ragazza cubana, giovanissima anche lei, ne abbiamo parlato tempo fa qui al Soundcheck di Radio 24, scoperta dal magnate della musica Giles Peterson, magnate nel senso che veramente fa di tutto e di più ormai da 25 anni, 30 anni a questa parte, ha scoperto tantissimi talenti, una con etichette importanti come la Talking Loud, portò in auge all'inizio degli anni 90 l'Easy Jazz, programmi meravigliosi in radio per la BBC, adesso ha i suoi canali radiofonici via internet e tra l'altro è il direttore artistico di alcuni dei festival più interessanti che si svolgono in Inghilterra ma anche in giro per il mondo, Giles Peterson, che scopre anche il talento di Daimé Arosena, che è una cantante appunto afrocubana scoperta da lui e scioccato dalla sua performance quando al teatro Bertolt Brecht cercava dei nuovi talenti. Ma a Londra, no? A L'Avana. Cercava nuovi talenti, lei è salita scalza, evidentemente con questo suo turbante bianco, bella paffutella, e ha cantato e lui è rimasto folgorato dalla sua performance. Sì, bella paffutella, insomma, sta in carne la signorina, sta in carne, però una voce bellissima, potente, tra l'altro anche con una buona pronuncia inglese, e forse questa cosa l'ha anche aiutata ed è per quello che Giles Peterson le ha affidato anche brani in lingua inglese. Il papà le faceva ascoltare il jazz. E allora, prossimo brano invece ha come protagonista un altro talento americano, si chiama Jesse Fisher, pianista, compositore e arrangiatore che registra per la Rope Dope newyorkese, meravigliosa etichetta discografica, Silvia, è una delle più interessanti in questo momento, e che qui incontra Sly Fifth Ave per una versione strumentale di un grande successo di Herbie Hancock del periodo funk fusion con gli Ed Hunters, ovvero Chameleon. Che c'è Herbie Hancock? Mi hai detto sta registrando notizia qualcosa? Notizia di poche settimane fa che Herbie Hancock collaborerà con Flying Lotus e Thundercat. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. Altro artista della Rope Dope Records di New York, Sean Martin, tastierista con il background tipicamente gospel, infatti ha anche fatto parte della super band di Reverendo Kirk Franklin, qui con Claudia Melton in questa composizione originale intitolata Love Don't Let Me Down dall'album Seven Summers. E da Sean Martin a un'altra interessante collaborazione discografica fra etichette indipendente come Revive Music e l'ammiraglia del jazz ormai da quanti anni a questa parte? 75 anni di vita. Hanno festeggiato il 75esimo anno. Sì, alla Blue Note Records hanno 75 però, anni, mamma mia, però, e sono sempre stati attenti alle nuove tendenze, insomma al contemporaneo. Una volta i contemporanei per la Blue Note erano Herbie Hancock, Wayne Shorter, ma anche Art Blakey e Jazz Messengers, Horace Silver, Lee Morgan, l'autore di Sidewalk. Oggi invece protagonisti gli artisti che stanno facendo la musica in questo momento, quindi questa strana alchimia che a noi piace tanto, e infatti diciamo che uno degli ingredienti più importanti del nostro soundcheck, questa alchimia che c'è fra la black music contemporanea, il soul di una volta, lo swing, il jazz, l'hip hop, il rap e tutto questo poi per comporre un album intitolato Supreme Sonacy. Che è appunto un titolo così importante proprio per dare questa attenzione, questa atmosfera assolutamente senza riferimenti di categorie, appunto di genere. O di generi. E allora, proprio per affermare questo concetto, mia cara Silvia, ho scelto un brano che è stato un successo anche abbastanza mellow dance di Janet Jackson. E chissà perché hai scelto proprio questo. Perché io adoro Janet Jackson, ecco. Ho il debole, ognuno di noi ne ha uno, un debole per Janet Jackson da sempre. Il brano si intitola Let's Wait a While, naturalmente questa versione è molto molto più interessante nell'arrangiamento di quella originale che mi fece sognare però. Ecco. Allora, da Janet Jackson, questa è la versione di Supreme Sonacy con in evidenza il meraviglioso Marcus Strickland e la bravissima Krista Daschle qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. I Collective, questo è il nome della band fortissima che accompagna la tromba di Terence Blanchard in questa nuova produzione dal titolo Breathless. Breathless, ovvero senza fiato. Infatti questa è una band e anche un disco che ti lasciano senza fiato. Terence Blanchard, brano, una sua composizione dal titolo Soldiers, e praticamente con questo brano chiudiamo l'appuntamento del nostro soundcheck. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi approfitterei anche per invitare tutti gli amici che si trovano nella zona di Valenza Po, bellissima cittadina che ho già visitato alcuni anni fa per diletto ma anche per lavoro, perché ci ho già fatto un bel concerto venerdì prossimo 11 dicembre. Mi esibirò nel Teatro Sociale, anche questa è una bellissima struttura, con il nuovo quintetto, quindi invito tutti gli amici e mi aspettano, quindi sabato prossimo arriverò con un pelo di ritardo, ma ce la faremo. Io ti aspetterò. Intanto domani sera c'è il soundcheck, sempre qui su Radio 24, a partire dalle 19:15, una puntata come sempre la domenica sera un po' più jazz. Tu non ci sarai, mi ascolterai però. Certamente. Va bene, a tutti voi buona serata, grazie Silvia. Grazie Giuseppe Lestero. Il mal di testa è quasi passato, vedi, poi alla fine la musica mi fa sempre bene. È la miglior terapia. Grazie, ci risentiamo domani sera sempre qui su Radio 24. Vi lascio con All I Have to Say.